Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 30 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti, siete su Liberi Dentro e Duradio, ore 9 su Radio Città Fujiko, ore 10.30 su Teletricolore. Io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salam aleikum a tutte e a tutti. E Samad Bannak, ospite con noi per tutta la settimana di Liberi Dentro, buongiorno. Buongiorno, salam aleikum a tutti e a tutti, buongiorno. Allora, dovete sapere che sempre, parlavo ieri di Associazione Antigone, ha fatto una raccolta fondi con Produzioni dal Basso per continuare l'opera fondamentale che ormai fa da 20 anni di raccontare il carcere. E infatti leggo la notizia da redattoresociale.it: carcere, rendiamo trasparenti quelle mura, la raccolta fondi di Antigone su appunto Redattore Sociale. E questo progetto, il fine è questo, cito proprio Associazione Antigone: muri scrostati, sovraffollamento, violenza, ma anche opportunità di lavoro e riscatto sociale. Il carcere è tutto questo, ma la maggior parte della gente non lo sa. Celato dietro le mura alte e impenetrabili, alieno quando ubicato anche al centro delle città, il mondo del carcere brulica di vita. Un'esistenza a tratti disperata, lacerata, ma in tanti casi anche ricca e stimolante. Perché sì, perché Antigone fa anche questo, racconta il carcere, racconta le storie dei detenuti, racconta anche le esperienze positive, belle che nascono dentro. E siccome non vuole smettere di raccontare tutte queste cose, ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, che è una piattaforma italiana per il crowdfunding, cioè la raccolta fondi, e quindi contribuendo a questa campagna si può favorire ancora il lavoro di Antigone di raggiungere questo ambizioso obiettivo di rendere finalmente trasparenti le mura delle carceri italiane. Qui non vediamo, ma possiamo sapere in questo modo che cosa succede dentro. E ora do la parola a te, Ignazio, parlando di Algeria. Sì, continuiamo, passando all'Algeria, un po' il tema iniziato ieri appunto sulla visita del Papa in Iraq, che era questo incontro anche tra cristiani, che sono una minoranza ormai estremamente esigua, e musulmani, e questo valore che veniva dato da Al-Ahram, proprio perché sei piccolo, proprio perché conti poco, sei importante. E continua su questo tema un grande autore, un grande intellettuale algerino sulla Liberté, che è un giornale francofono dell'Algeria, Minzawi, che fa un articolo molto interessante sul rischio dei ghetti linguistici, etnici e religiosi in Nord Africa. E la domanda che fa, diciamo, la leggo in francese, il testo in francese: comment et pourquoi dans le monde arabe et en Afrique du Nord le minorité se transforma en ghettos linguistiques, culturels e religiosi. Come mai le minoranze si trasformano nel Nord Africa in ghetti? E tutto l'articolo è costruito sull'idea che quelli che contano poco valgono molto in un paese, ed è bello che ci venga detto dal Nord Africa. È anche una lezione, perché noi abbiamo lo stesso problema in Italia. Tu arrivi, sei pakistano, sei marocchino, siete in pochi, state zitti, non dite questo, non fate l'altro. Certo, ci sono delle regole da rispettare, giusto, le persone che arrivano si devono integrare, tutto vero, ma d'altra parte c'è il rischio che la maggioranza si trasformi in una maggioranza dispotica. E lui tira fuori un argomento che mi colpisce molto, l'arabità, il nazionalismo arabo, no? In arabo diciamo l'oruba, l'arabità, che è stato l'elemento di unificazione di tutta quest'area. Tutti quelli che parlano arabo appartengono alla stessa nazione, cristiani compresi. Ma lui dice: state attenti, perché dietro l'arabità ci può essere un modo di schiacciare quelli che, per esempio, parlano loro di originariamente una lingua che non è l'arabo, per esempio i berberi, no? Che hanno i loro dialetti. Qua c'è Samad, chissà, potrebbe dire tante cose sulle florescenze, tutte le tante culture del Marocco. Quindi, in conclusione, mi sembra un messaggio molto interessante, quello che ci viene dall'Africa, dal Nord Africa, da questo autore algerino: le minoranze sono una ricchezza che va custodita. Grazie Ignazio, e interrompiamo sempre la metà della nostra mattina col primo brano musicale con voci maschili, dicevamo, no? Sì, e dopo l'Egitto mettiamo un cantante che viene dagli Emirati Arabi Uniti, e giovane Hossein Al-Jasmi, che è un cantante emergente, viene molto ascoltato nel mondo arabo, magari noi non ne sappiamo nulla, ma appunto consideriamo tutto questo terreno come il nostro cortile di casa, quindi è bello sentire anche queste voci, e quindi ci propone il classico brano, ecco, d'amore, Ohibbu, che ti amo. انا احبك واشوفك بين الحين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذر علي يبقى احبك بين يوم الدين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذر علي يبقى احبك ليه Eccoci sulle note musicali di questo nuovo cantautore. Siamo sempre su Liberi Dentro Edu Radio, sempre su Radio Città Fujiko, su Tele Tricolore, e adesso parliamo di Galateo Arabo Internazionale, la nostra rubrica di virtù e valori che condividiamo da ogni parte del mondo, da dove ci troviamo. E dopo aver parlato, stiamo parlando di ospitalità, dell'importanza dell'ospitalità, e allora io ti chiedo, Ignazio, l'accoglienza, ma anche, cioè, dal lato opposto, no? Anche chi ha accolto deve fare qualcosa. Esatto, è un modo per fare di gratitudine verso chi ti apre le porte di casa. Allora dice questo nostro Galateo arabo, Arba Ashia, lui dice, An yajles haitso yujlas, cioè che l'ospite si siede dove gli viene detto di farti sedere, cioè ci dà un posto buono, però deve accettare, perché poi chi ospita mette magari il più anziano sulla poltrona, quindi si metta nel posto che gli viene dato. Poi la seconda, Agnarda idajada lahu sahibuddar bimaujudi, cioè che sia contento, ecco, mostri contentezza dell'ospitalità che riceve. La terza cosa, alla yakumu illa bi izni rabbil bait, questo è un po' difficile, devo dire, per me, ecco che sono un po' frettoloso, dice che non si alzi se non con il consenso al cenno del padrone di casa. Noi diciamo anche in Siria, quando uno dice bilizen, cioè con permesso, si chiede, no? E quindi non è che uno si alza, a un certo punto se ne va. E poi la quarta cosa bellissima, la vedremo anche nei giorni seguenti, agnadu lahu ida kharaja, cioè che quando esce da casa prega per lui, lo benedice, e quindi dà molta, molta solennità. Allora uno può dire, io non credo in Dio, eccetera, eccetera, va bene, uno è ateo, per esempio, ma dire una parola che sia solenne, una benedizione, questa è un grande segno di come si è ospitati. Bello, molto bello tutto questo. E invece adesso parliamo sempre con te, Samad, e sì. Se vuoi riprendere un po' anche dalle cose che ci siamo detti ieri, però in particolare, siccome abbiamo citato Antigone, quindi il fatto della trasparenza, di vedere il carcere in tutte le sue dimensioni, noi sappiamo che una delle problematiche del carcere è la dipendenza, è il problema delle persone tossicodipendenti che magari lo sono già prima e che nella struttura carceraria devono in qualche modo gestire questa loro condizione, questa loro situazione. Come si fa a liberarsi dalla dipendenza da sostanze? Sì, grazie. Giusto per riprendere anche il tema che avevamo parlato ieri, che è proprio della libertà e anche le dipendenze, essere dipendenti da qualcosa, quindi non sei libero. Anche quello, il fatto che tu hai delle dipendenze da delle cose negative, che per alcuni potrebbero essere tipo le droghe, alcol, o qualsiasi forma, sostanza di dipendenza, cioè che tipo che potrebbe, come dicevo, poter essere l'alcol o le droghe, quindi non ti rende libero. E tantissimi quelli che finiscono dietro le sbarre, nelle carceri, nella maggioranza dei casi sono tossicodipendenti o di alcol di qualsiasi forma, anche perché alcuni, no? Soprattutto per i recidivi, per poter commettere certi reati, nella maggioranza dei casi sono dei reati che talmente non li fai solamente se sei sotto effetto di stupefacente. Purtroppo il carcere non è un posto migliore per aiutare le persone a uscire dalle loro tossicodipendenze. Le comunità, come sappiamo tutti, sono pochissimi e quindi tante persone sono in attesa di essere portate fuori per andare a curarsi nelle comunità contro la tossicodipendenza. Però vorrei sottolineare questo tema che io ho visto durante la mia reclusione al carcere della Dozza, che tantissime di queste persone tossicodipendenti uscivano e tantissime ritornavano con una velocità lampo anche un giorno, due, tre, proprio per gli stessi stupefacenti. Quindi uscivano con questo desiderio, questa mancanza, no? Perché non c'è cura, magari dentro si sono anche disintossicati, però non si sono disintossicati psicologicamente. Magari per 3 anni uno non fa o 2 anni non fa uso di sostanze stupefacenti che l'eroina o qualcosa, o l'alcol, che potrebbe essere anche l'alcol, ma psicologicamente non si è disintossicato. E quindi appena esce c'è questa forte sete psicologica di ritornare proprio alle droghe, quindi alle droghe o agli stupefacenti o a qualsiasi forma di tossicodipendenza, che potrebbe essere anche l'alcol. E questo delle volte non fa altro che proprio una forte recidiva, un ritorno molto veloce in carcere, anche perché per poter sostenere delle spese alte, che quelle che sono proprio delle droghe, non è che lavorando che ti puoi comprare proprio, e quindi questo è uno dei grandi problemi, no, che ci tenevo anche a sottolineare. Poi, hai delineato benissimo il percorso e io ti chiederei in pochi secondi, lo so che è poco, magari ci ritorniamo anche domani, e qual è un primo passo per cominciare a liberarsi? Spesso diciamo con la nostra psichiatra Maria Inglese il fatto di parlarne. Purtroppo è questo. Purtroppo mancano risorse, mancano risorse. Parlare significa tempo, significa degli educatori, significa personale disposto a mettere in gioco il suo tempo ad ascoltarti. Non bastano gli educatori, non bastano l'Avoc, CETO, giusto per citare, qua a Bologna, quindi bisogna investire su questo punto. Grazie Samad, lanciamo un brano musicale. Lancio questo brano musicale che di questa cantante libanese che canta lei sempre per la libertà, proprio Giulia Botros, e quindi sentiamo questa canzone. Grazie, e noi ci rivediamo domani con voi e seguiteci nella seconda parte di puntata con l'ospite. مش عم نسمع حسوا لو احلاله انتبه لحاله صار يواخذ نفسه تبل عيونه تقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا تبل عيونه تقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزه صحصح مش عم نسمع حسوا لو احلاله انتبه لحاله صار E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Oggi siamo con una nuova ospite qui con noi, Beatrice Draghetti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Beatrice, a tutti quelli che ascoltano, non solo a lei. Assolutamente, tra la città e il carcere, come dico sempre. E tu, Beatrice, sei presidente di FOMAL, che è questo ente accreditato dalla regione per la formazione professionale nell'ambito della ristorazione e dal carcere minorile del Pratello. Quindi intanto ti chiedo di presentarci tu, che cosa è, che cosa fa FOMAL. Sì, buongiorno intanto ancora. Allora, FOMAL vuol dire Fondazione Opera Madonna del Lavoro. e appunto è un ente di formazione professionale, che significa che è un luogo di formazione per permettere ai ragazzi e alle ragazze che si iscrivono di prendere una qualifica professionale, che vuol dire permette loro di inserirsi nel mondo del lavoro. E l'ambito appunto è quello della ristorazione, cioè possono diventare cuochi, operatori di sala o addetti al bar. E perché devo dire che se si esclude questo bruttissimo periodo del coronavirus, l'ambito, il settore della ristorazione, soprattutto nella nostra città, è un settore che assorbe molti addetti, quindi in genere i ragazzi che escono con la qualifica professionale in questo campo vanno poi a lavorare. Chi è che si iscrive a FOMAL e comunque a un ente di formazione professionale? Secondo la legge che vige nella nostra regione, si iscrivono le persone, i ragazzi che hanno fatto un anno alla scuola superiore di qualsiasi tipo, e poi possono iscriversi appunto all'ente di formazione professionale, dove fanno 2 anni e poi c'è la qualifica, e poi da qualche tempo esiste anche un quarto anno facoltativo in cui si prende il diploma di tecnico di cucina o di bar. FOMAL è una realtà molto grande perché ci sono iscritti circa 400 ragazzi e abbiamo 2 sedi, una sede a Bologna e una sede a San Giovanni in Persiceto. A San Giovanni in Persiceto c'è anche un corso di cure estetiche, non solo di ristorazione. Su che cosa scommettiamo? Scommettiamo in breve su questo. Certo, noi miriamo a dare a questi ragazzi e a queste ragazze delle competenze robuste per essere bravi lavoratori quando escono dai nostri corsi, ma devo dire che ci sta molto a cuore anche la crescita e la maturazione complessiva di queste persone. È un'età molto delicata perché hanno fra i 15 e i 18 anni, molti di loro vengono da fallimenti e da insuccessi scolastici, molte volte hanno delle fatiche familiari o sociali, però noi diciamo sempre a loro, e lo vogliamo praticare cammin facendo, non importa quello che si ha alle spalle, quello che è importante è adesso ritrovare le motivazioni per diventare bravi cittadini, per diventare lavoratori competenti e quindi scommettere per il futuro. Ecco, a noi la parola fallimento non piace più, ce la lasciamo alle spalle e puntiamo a che i ragazzi possano avere delle possibilità belle di futuro. E infatti mi inserisco con questa domanda che magari poi dopo riprendiamo anche dopo il brano musicale. È partito nel 2019, siccome vi piace scommettere sui ragazzi, questa è una cosa bellissima perché è il nostro futuro, e la Brigata del Pratello, che è l'unica osteria in Italia e in Europa all'interno di un istituto penale minorile. E quindi ti chiederei di dircelo in 30 secondi, poi dopo lo riprendiamo dopo. Ma devo dire che FOMAL da tanti anni è dentro al carcere per minorenni di Via del Pratello con dei corsi di formazione professionale anche con e per questi ragazzi. Quindi qui è molti anni e cerca di applicare lì dentro quello che fa con gli altri ragazzi delle scuola, nella scuola cosiddetta fuori, insomma, no? E in questo cammino è partito, ma ne parliamo dopo allora, è partita questa esperienza bellissima di un ristorante in cui cuochi e camerieri sono i ragazzi stessi ospiti, le persone detenute dentro al Pratello, quello che seguono i corsi, ed è un ristorante aperto al pubblico, cioè sarebbe stato aperto al pubblico se non ci fosse stata questa tremenda cosa, ma riprendiamo dopo. E allora, quale modo migliore per ascoltare un brano musicale con Rita Pavone, un brano del 1965 che conosciamo tutti, Viva la pappa col pomodoro, e voi rimanete con noi perché dopo c'è sempre Beatrice a raccontarci la Brigata del Pratello. Abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la pappa pappa, al polo popo popo popo pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo popo popo lavoro. Viva E rieccoci sulle note di Rita Pavone, siamo sempre con te, Beatrice. Ti ho fatto prima la domanda sulla Brigata del Fratello, questo ristorante nel carcere minorile di Bologna, e se continui a raccontarcelo e anche poi se ci racconti i progetti futuri, quando finalmente potremo essere liberi di muoverci tutti quanti. Certo. Allora, intanto per chi non fosse proprio esperto del campo, devo spiegare perché questo ristorante aperto dentro al carcere dei minorenni si chiama Brigata del Fratello. Brigata è un nome tecnico proprio della cucina, cioè il gruppo di addetti alla cucina per preparare un pranzo è chiamata proprio Brigata normalmente. Quindi la Brigata del Fratello è il ristorante che, dopo un cammino molto lungo e impegnativo, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 2019. E devo dire che è stata un'esperienza magnifica, perché l'intenzione nostra era, è e sarà duplice, cioè da un lato dare una possibilità concreta ai ragazzi che sono ospiti dentro al fratello di qualificarsi e di scommettere sul futuro. Noi crediamo che il carcere sempre e comunque debba essere un luogo di rigenerazione delle persone, di recupero, di rilancio. Quindi bello mettere nella bisaccia di chi è dentro per qualche tempo a queste situazioni, per poter eventualmente esprimersi come lavoratore. Ma questa esperienza del ristorante riteniamo che sia molto bella anche per la città, perché la città deve accorgersi di questi luoghi. Perché deve rendersi conto anche che forse qualche responsabilità in esiti non proprio positivi di molti ragazzi è anche della città stessa. E aperta al pubblico, pensate che quando abbiamo dovuto chiudere il ristorante perché è arrivata questa carogna del virus, noi avevamo 600 prenotazioni. Quindi c'è stata una risposta molto bella, molto, molto larga, e ne abbiamo per ora potuti accontentare solo pochi, ma noi contiamo, appena si potrà, di rilanciare questa esperienza che ha fatto anche molto contenti i ragazzi, come cosiddetti dentro. Pensate che sono stati così creativi che in questa cena con i fiocchi che preparavano, perché sono cene preparate per gli ospiti che arrivavano, donavano a tutti alla fine della cena un sacchetto fatto artigianalmente, un sacchetto di biscotti che abbiamo affettuosamente chiamati sbarrini, richiamando le barre, ma un quadretti con dei disegni di cioccolata molto simpatici. Bene. Ma contiamo di riaprirlo. Venendo alle altri progetti. Ad altri progetti di FOMAL in senso lato, cioè per i ragazzi che si iscrivono e frequentano la nostra scuola, insomma, no? Ecco, allora, intanto è evidente che essendo una scuola di formazione professionale devono conoscere sia le materie pratiche, quindi fanno moltissimi laboratori in cucina, in bar, laboratori, e devono però conoscere anche le cosiddette materie trasversali, italiano, matematica, inglese, perché sono strumenti importantissimi per lavorare. Poi ci sono moltissime ore in stage, nel senso che i ragazzi non sono solo sui banchi e in laboratorio, ma vanno anche presso aziende per imparare più direttamente il loro mestiere. Ma poi, dato che, come dicevo prima, ci interessa la crescita complessiva delle persone, noi proviamo a farli fare anche delle esperienze larghe. Per esempio, abbiamo avviato, molte di queste cose sono chiuse per colpa sempre dell'epidemia, le cosiddette imprese formative. Noi, i ragazzi, vuol dire che vanno in un luogo vero tipo ristorante, servono clienti veri, non semplicemente mangiano loro quello che certo. Si preparano. Ricordo l'OFF, l'Osteria Formativa Fioravanti, vicino al comune in via Fioravanti, ed è stata un'esperienza bellissima, oppure anche al Circolo Ufficiali, cioè contesti lavorativi veri, con dei clienti veri, in cui loro si cimentavano. Poi fanno l'esperienza della transnazionalità, cioè vanno in estate all'estero. Sì. Abbiamo fatto anche qualche vacanza assieme a Castelluccio ed è stata proprio un'esperienza di vita comune molto bella, e poi esperienze anche di volontariato con la Croce Rossa, con la Protezione Civile. Quindi diciamo è un luogo di vita che ci preme tantissimo. Grazie Beatrice, è bellissimo perché tu hai tanto da raccontare, quindi spero che tornerai su Eduradio molto presto. Grazie a voi. E siccome non dobbiamo mai fermarci con i nostri progetti, io lancerei i Queen, e secondo me questa la conosci, Don't Stop Me Now del 1978. Grazie, alla prossima. Grazie mille, grazie, ciao. Laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Rieccovi dopo le parole di Beatrice Draghetti di FOMAL, ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento a domani, ore 9 su Radio Città Fujiko, ore 10.30 su Teletricolore. Vi ricordo i nostri laboratori, oggi pomeriggio alle 17 abbiamo Poggeschi, collaboratore del giornalismo, su, sempre sul canale 636 di Teletricolore. Ringrazio tutta la redazione, il nostro ospite fisso della settimana Samad, il nostro tecnico Matteo Parisini, Ignazio De Francesco. Scriveteci, l'indirizzo è sempre quello, liberidentro.eduradio@gmail.com per le mail, oppure chiedo a Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. E noi ci rivediamo domani sempre qui a Liberi Dentro.